ben chiaro che non penso alla casetta. Due locali più servizi, molte rate, pochi vizi. Che verrà quando verrà? Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli, di 1100 ferme sulla via, con i vetri appannati di bugie, di fiati lungo i fossati della periferia. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Non ho detto a passeggiare e nemmeno a scambiarsi qualche bacio. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, credo, quanto a me. Vanno a coppie nostri simili quest'oggi per le scale nell'odore di penosi alberghi a ore. Ma chissà, l'amore c'è. Vedi, amore, anche la fretta tutta fibbie, lacce, brividi nella nebbia gelata e sull'erbetta. Un occhio alla lambretta, l'orecchia quei rintocchi che suonano d'Amborgo la novena, è una radio lontana che alle nostre due vite dà i risultati delle ultime partite. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Lo sai bene che io non sogno, questo mondo di noi due non ha bisogno. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Se volere bene sempre è più difficile, amore mio, non dar la colpa a me. Ho girato per la morgue tutta notte, ergo dal funerale di Charlotte. Son due giorni che mi bevo caffè latte, stamattino sanguinato dalle botte. Son felice, sì lo so. Da bambina mi reggevo una stampella, da ragazza avevo solo una mammella. Mi scottevano perché non ero bella, mi chiamavano la storpia monachella. Son felice, sì lo so. I nazisti mi hanno ucciso i genitori, i franchisti mi hanno fatto quasi fuori, dai fascisti roba idiota e grandolori, i balilla m'han violato sui tamburi. Son felice, sì lo so. La fortuna non mi abbandona, io sono una che vivere sa. Dalla casa m'ha schiacciata a mezzanotte, alle 9 mi hanno messo le manette, sopra un carro insieme a 5-6 mignotte, in guardina è uscito pusta alle ossa rotte. Son felice, sì lo so. poi c'è stato quel ricatto sul lavoro, l'infortunio appalto nuovo con la cicca, disprezzata solo perché non ero ricca, mai nessuno mi ha stimato una di loro, son felice. Sì, lo so, contro un muro m'ha schiacciato un camionista, son finita nell'inferno un po' persista, sopra il capo c'è un demonio che ero vista, nell'inferno mi dimeno senza sosta, son felice. Sì, lo so, la fortuna mai mi abbandona, io sono una che vivere sa, la fortuna non mi abbandona, vita è vita, che colpa ne ha?